Tex, però se posso non avere, ma ci mancherebbe, non è assolutamente una critica, ma quanto un invito, paura di formule matematiche o algoritmi di qualunque tipo. Come diceva il grande Hilbert, non sono importanti i numeri, ma i rapporti che esistono tra i numeri. E in quest'ottica tutti siamo dei matematici. Quindi, ed è molto importante capire i rapporti che esistono. Ed è anche bello sotto il profilo estetico. Quindi è un invito perché noto, come posso dire, una certa, tra virgolette, resistenza, ma non ci mancherebbe, non è assolutamente, ripeto, una critica, anzi mi scuso se dovesse apparire in questi termini. Formule hanno una bellezza, hanno un'estetica, e la matematica è, o comunque la logica, o anche scendendo l'informatica, tutta la branca della tecnologia fino veramente alla tecnologia più ultima. Hanno una propria estetica, hanno una propria bellezza e oltretutto sono veramente penetranti, cioè vanno ovunque, sono ovunque in qualunque argomento, sia filosofico che sociologico, che penetrano dappertutto, è un comune denominatore che ci unisce. Non a caso, quando gli scienziati hanno pensato a un possibile, ripeto, collegamento con gli alieni o comunque con un'entità aliena, si è pensato che l'unico trade union, l'unico quello che ci unisce potrebbe essere solo la matematica, perché è universale e tutti alla fine, parlando di matematica, si troverebbero sugli stessi assiomi, sugli stessi fondamenti.